Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente che potete ascoltare solo su Radio Transizione di Fase. Questo programma, ve lo ricordiamo, è curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Questa sera, come avete potuto notare, siamo andati in onda con mezz'ora di ritardo, spero non ce ne vogliate a male. Ma giungiamo a noi, cominciamo a parlare di quelli che sono gli argomenti che tratteremo questa sera. In primo luogo, la nostra notizia di apertura è il comunicato del Centro Sociale Angelina Cartella di Reggio Calabria. Generalmente le notizie calabresi sono sempre lasciate per ultime perché gli ultimi saranno i primi, ma in questo caso pensiamo che sia importante parlare di quanto accade a Reggio Calabria, di quanto accade al Cartella, anche perché Radio Transizione di Fase e non solo chiaramente Indie Media a Calabria sono solidali con il Cartella. Poi parleremo di quello che accade a Torino, dove gli studenti manifestano alla laurea o ad una manifestazione per una laurea honoris causa. Passeremo poi a Napoli, dove degli operai hanno riaperto l'azienda dove lavoravano, mentre il 5 maggio c'è questo appello per scendere tutti quanti in piazza per l'acqua pubblica a Roma. Poi giungeremo negli Stati Uniti, dove un detenuto, che poi si scoprirà essere innocente, viene dimenticato per 5 giorni in una cella. Andremo poi a Rimini, dove per Occupi Rimini viene scritta una lettera aperta al procuratore Giovagnoli e alla sua prassi intimidatoria. E poi leggeremo di quello che è accaduto a Catania, dove un giovane lavoratore rimasto disoccupato perché licenziato da un negozio si butta dal quinto piano e chiuderemo con un'altra triste notizia, un tentato suicidio invece al CIE di Bologna. Questi dunque gli argomenti di questa nuova puntata di Indie Radio, il programma di informazione indipendente che, ve lo ripeto, potete ascoltare solo su Radio Transizione di Fase ogni venerdì alle 20 o anche 20:30, come è accaduto questa sera, e in replica vi ricordo che potete ascoltarci ogni sabato alle ore 20:30. Giungiamo dunque a leggere quello che è il comunicato del Cartella. Il 25 aprile, festa della liberazione, abbiamo festeggiato i 10 anni di occupazione, un traguardo importante per una realtà come la nostra, che nell'estremo sud rappresenta la possibilità di vivere e condividere secondo modelli altri e non quelli che il sistema ci impone. Sicuramente una tappa significativa per un'esperienza che a Reggio Calabria, la nostra città, la città dei boia chi molla, ha dato fastidio a parecchi e suscitato diversi episodi di intolleranza. E infatti in questi 10 anni ne abbiamo viste e subite tante, dagli attentati incendiari ai raid vandalici, dalle svastiche vergate sui muri ai manifesti inneggianti alla nostra morte. Azioni affatto piacevoli, ma di certo messe in conto quando abbiamo deciso di dar vita a questa esperienza. Azioni comunque la cui origine è sempre stata chiara. Oggi invece siamo costretti a denunciare una stranissima sequenza di fatti che purtroppo vedono protagonista il nostro spazio. Una serie di piccoli incidenti che, visti singolarmente, possono anche apparire sciocchezze, ma che così concentrati nel tempo, rappresentano per noi un subdolo tentativo di intimidirci, di farci desistere, di far chiudere questa realtà. Stiamo parlando di azioni di sabotaggio di vario tipo, come la rottura sistematica di lampioni e plafoniere, la colla messa nei lucchetti, la devastazione dei rifugi della colonia Felina, la rottura di vetri e diversi tentativi di effrazione, fino all'ultimo triste caso alla vigilia del 1° maggio e della giornata di festa organizzata al Cartella, quando abbiamo ritrovato la porta della cucina completamente divelta, le scorte di cibo e bevande acquistate per l'iniziativa saccheggiate e anche parte delle attrezzature audio rubate. In un periodo di crisi è fuor dubbio che il numero di furti aumenti, ma queste dinamiche, queste tempistiche non sono certo collegabili a chi ruba per bisogno, sono atti intimidatori, sgarri da mafioso di infimo grado, fatti per colpirci. Il tentativo è quello di farci mollare, questo è chiaro. Quello che ancora ci sfugge è il perché di tutto ciò. Forse perché questa struttura, ormai punto di riferimento non solo per attivisti e simpatizzanti, ma anche per la gente del quartiere, è diventata troppo appetibile per chi desidera trasformarla in bar, pizzeria, luogo di profitto. Forse perché anche se siamo uno spazio liberato non consentiamo che all'interno si possa spacciare o perseguire i propri interessi. O forse perché lo vorrebbero vedere abbandonato come un tempo e non attivo e vissuto attraverso corsi di italiano gratuiti per stranieri, cineforum, presentazioni di libri, concerti, rappresentazioni teatrali, mercati contadini equi e solidali. Tutto questo senza mai chiedere soldi pubblici e contando esclusivamente sulla pratica dell'autogestione. Questa situazione sta rappresentando per noi un grosso costo, sia in termini economici che di tempo sottratto alle iniziative in campo. Per questo abbiamo deciso di lanciare la campagna Io sto con il cartella, alla quale chiediamo a tutte e tutti di aderire. Nei prossimi giorni, nell'ambito di questa campagna, organizzeremo una serie di iniziative benefit alle quali vi chiediamo di partecipare e di promuovere. Perché chiunque abbia compiuto questi ignobili gesti pensando di poterci stancare, disilludere, desistere, si sta sbagliando di grosso. La resistenza è nel nostro DNA e non molleremo di certo. E questo comunicato firmato dal Centro Sociale Angelino Cartello di Reggio Calabria è stato diramato il 3 maggio 2012. Ovviamente tutta la nostra infinita stima e solidarietà al Centro Sociale Angelina Cartella, tutta la solidarietà di Indimedia Calabria, e chiaramente l'invito viene raccolto e per quello che c'è possibile, sicuramente, cari compagni del Cartella, tenete presente che noi ci siamo, quindi continuate così, continuiamo tutti quanti insieme a resistere. Passiamo ora alla seconda notizia, quella cioè di Torino, dove gli studenti manifestano alla laurea honoris causa. Una cinquantina di studenti ha occupato ieri pomeriggio il cortile del rettorato dell'Università di Torino, dove era in corso la cerimonia per il conferimento delle lauree honoris causa, per protestare contro i tagli dei fondi per l'istruzione pubblica. Alcuni di loro, dopo aver concordato col rettore Ezio Pellizzetti, hanno poi preso la parola e espresso le loro rivendicazioni. I manifestanti, appartenenti agli studenti indipendenti, hanno anche esposto uno striscione. In precedenza gli studenti avevano organizzato un presidio. Scusate, qua non capisco cosa c'è scritto, è un italiano sbagliato, quindi modifichiamo un pochino. In precedenza, dunque, in Piazza Castello c'è stato questo sit-in, questo presidio degli studenti, che intendevano appunto presidiare il CoReco, Comitato Regionale di Coordinamento delle Università, che avrebbe dovuto ridefinire i criteri per l'assegnazione delle borse di studio. La proposta, si legge in un comunicato degli studenti, prevedeva la restrizione dei criteri di idoneità rispetto al passato, riducendo dunque il numero di potenziali beneficiari. Le lauree honoris causa sono state poi consegnate come da programma al professor David Mumford in matematica, al professor Satya Frat Sastri in filologia, letteratura e storia dell'antichità, al professor Marcello Cesar Bianchi in psicologia. Dunque, questo comunicato, insomma, che ci fa molto di ansia, dobbiamo dirlo, è stato comunque pubblicato su Indimedia Italia, su Indimedia Piemonte, scusate. Le notizie che seguiranno sono infatti quasi tutte provenienti dal newswire di Indimedia Italia. Continuiamo dunque a leggere le altre notizie di cui vi parlavamo. E dunque, giungiamo a Napoli, dove degli operai hanno riaperto l'azienda dove lavoravano. Quindi una bella iniziativa sicuramente, una iniziativa che certamente, vabbè, magari potrà far ricordare ai nostalgici qualche potrà far sognare, diciamo così, ai nostalgici del comunismo reale, del socialismo reale, qualche vecchio soviet, e sicuramente queste immagini comunque sono sempre molto belle. La realtà dei fatti è che effettivamente occorre uscire da questo stato di cose attraverso l'auto-organizzazione. L'auto-organizzazione che era quella, che è quella per esempio del Centro Sociale Angelina Cartella di Reggio Calabria, che è quella anche di Radio Transizione di Fase. Intanto vi ricordo che questo programma Indie Radio, che è creato e posto in essere dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media, è in questo momento in diretta, quindi potete anche giungere sulla chat di Transizione di fase, che sicuramente ora sentirete anche il mio computer che emette dei suoni, forse, perché appunto potete entrare sulla chat di Indie Radio, transizione di fase, e potete anche dialogare con noi, perché questa sera Indie Radio, contrariamente a quanto accade di solito, è trasmessa in diretta. Quindi intanto salutiamo i nostri amici in chat, sperando ci sentano. Dunque, dicevamo di quello che accade a Napoli. A Napoli, dunque, è nata la cooperativa La Carovana. I lavoratori, dunque, è vero che possono auto-organizzare il loro lavoro. Nella zona industriale di Nola è risorta dalle ceneri della fallita Esplana Sud, come la Fenice, una nuova realtà, la Carovana Coop. Si tratta di una iniziativa di circa 40 ex dipendenti che hanno investito il loro TFR e l'indennizzo di mobilità per creare una nuova impresa. I lavoratori, se sono determinati, possono auto-organizzare dunque il lavoro per se stessi. Insieme si sono uniti formando una cooperativa, versando in essa la stessa quota parte per raggiungere insieme un obiettivo comune, un lavoro dignitoso. La Campania è riconosciuta da sempre a livello nazionale come una delle più grandi realtà per la produzione di lavorati ortofrutticoli freschi e confezionati, coltivati nelle fertili campagne che vanno dai piedi del Vesuvio fino all'agro Nocerino Sarnese, ed è proprio qui che si trova una delle più grandi aziende del Mezzogiorno. La vecchia azienda, dopo essere stata messa in liquidazione a causa di una cattiva gestione finalizzata alla speculazione imprenditoriale, è stata coraggiosamente tenuta in vita grazie all'occupazione degli operai che, non accettando l'idea di restare senza lavoro dalla sera alla mattina e far chiudere la loro azienda, leader nel settore da 40 anni, vigilano su di essa giorno e notte, senza però riuscire a evitare che finisse in balia di sciacalli, pronti a trafugare mezzi ed attrezzature. Oggi la Carovana Coop è una cooperativa di compagni di azione e lotta determinati a non cedere alla miseria. La Carovana Coop è nata nei primi mesi del 2012 per garantire un futuro alle famiglie dei lavoratori impegnati attivamente in questa nuova impresa. Lavoratori che lasciano a casa i propri cari, i propri problemi, per condividere con gli altri quel poco che ancora si ha, con l'obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro. Passeggiando nei capannoni bui tra i macchinari impolverati e attrezzature per la lavorazione e l'imbustaggio, ci si rende conto di quanto grande è stata questa azienda fino al giorno della notizia fatidica. Siamo falliti, l'azienda chiuda, andata a casa. Tra le catene di imballaggio sembra di sentire il grido sordo dei macchinari che chiedono di essere rimessi in funzione per poter espletare quello per cui sono stati prodotti. In un meridione dove le aziende chiudono, licenziano o delocalizzano, un pugno di persone invece vuole sfidare la crisi, credendo fermamente in un sogno: riportare agli antichi cicli di produzione un'azienda che negli ultimi 40 anni ha fatturato e creato lavoro al sud, garantendo uno stipendio per oltre 100 famiglie. La nuova azienda avrà un carattere solidale, basato sull'obiettivo comunitario del mutuo soccorso, affinché il proprio rapporto lavorativo e le competenze maturate negli anni siano di aiuto per l'intera gestione dell'azienda, che poggia sull'auto-organizzazione del lavoro e su nuovi rapporti di produzione estranei da quelli tradizionali ormai superati. Aggiungiamo noi il capitalismo, anche se, vabbè, in questo comunicato, insomma, pare che non si colga a volte che non basta, diciamo, ripetere le logiche di produzione del capitale, andrebbero esse stesse superate. Comunque, continuiamo a leggere questa notizia, che, ve lo ricordiamo, è sempre pubblicata sui media di Indie Media. La Carovana Coop si affaccia nuovamente sul mercato italiano, garantendo alla clientela un processo produttivo caratterizzato da un elevato standard qualitativo, puntando comunque su nuove tecnologie innovative atte a migliorarsi nel tempo, e ci auguriamo che siano tecnologie di stampo ecologistico. La Carovana sta per ripartire con a bordo uomini, donne, sogni e speranze per un nuovo futuro. Questi uomini e queste donne lavoratori che stanno auto-organizzando il proprio lavoro vogliono dare, con la loro lotta e le loro scelte, un contributo ai lavoratori che oggi sono minacciati di licenziamento o di chiusura dell'azienda, per mostrare concretamente che i lavoratori uniti possono tutto. Il padrone chiude le aziende, anche se queste sono produttive, solo per guadagnarci ancora di più. E dunque bando al disfattismo e alla sfiducia, continua ancora questa notizia. Possiamo vincere, dobbiamo vincere, dipende da noi. Rimettere in piedi il nostro paese dipende da noi. Non possiamo affidarci a coloro che ci hanno trascinato nel disastro delle loro crisi. E poi noi non pagheremo le nostre crisi, ci sono ancora tanti altri slogan, i lavoratori uniti sono invincibili, solo loro possono attuare progetti per salvaguardare i propri interessi. Nessuna azienda deve essere chiusa, nessun lavoratore deve essere licenziato. Ad ogni adulto un utile lavoro dignitoso. E poi si ricorda, dopo tutta questa serie di slogan, alcuni lo diciamo, secondo noi un po' vetero, c'è un'altra importante comunicazione, ovvero l'assemblea pubblica promossa dalle lavoratrici e lavoratori Coop La Carovana, giovedì 10 maggio alle ore 16, sala Nunez, via Verdi 35, Napoli. Sono invitati a partecipare i lavoratori e le lavoratrici, attivisti sindacalisti e RSU della sinistra sindacale conflittuale, che chissà insomma dov'è, politici progressisti, ma e promotori della democrazia partecipativa, le associazioni, i comitati e i movimenti in lotta per la difesa e la conquista di un lavoro. Sindacati e la firma poi, insomma, è quella dei sindacati lavoratori in lotta per il sindacato di classe. E poi ci sono tutta una serie di informazioni utili al reperimento, insomma, della dei contatti con questa realtà. Beh, noi possiamo dire che sicuramente questa esperienza va valutata in maniera molto molto positiva, perché effettivamente occorre davvero puntare sulla auto-organizzazione del lavoro, sempre augurandoci che questa vada al di là delle logiche della produzione tipica del capitalismo, per giungere ad un nuovo concetto di sostentamento, di produzione e più che altro di vita, perché la produzione fine a se stessa è quella che è alla base poi del capitalismo. Il profitto non deve essere dunque il fine ultimo è sempre, dovrebbe essere sempre la vita dell'uomo. Questa potrebbe essere la chiave di lettura per il superamento reale del capitalismo, che comunque è entrato in questa grande crisi, una crisi che comunque magari è destinata anche a risolversi nella misura in cui è stata essa stessa creata e voluta da poche persone, giusto per ridurre ancora in maggiore schiavitù i lavoratori, le lavoratrici, non solo più del cosiddetto terzo mondo o quarto mondo, come si diceva un tempo, ma anche dell'Europa e degli Stati Uniti. E andando avanti vediamo qualche altra bella ed interessante notiziola, e giungiamo dunque ad un'altra notizia. Ci dicono che non si sente niente, forse il vostro computer. Noi continuiamo a fare la trasmissione, comunque ci diamo un attimo di pausa e vediamo un po', e poi continueremo a parlare di quello che accade a Roma. ci dispiace dover bloccare, diciamo così, questa bella canzoncina, ma vediamo un po' di riprendere le fila del nostro discorso. Intanto una piccola prova ai microfoni, giusto per gradire. Abbiamo capito che chi ci ha dato l'informativa relativa alla presunta, come dire, al presunto silenzio della radio durante la nostra trasmissione si è enormemente sbagliato. Infatti abbiamo avuto modo di verificare che effettivamente la nostra voce giunge abbastanza chiara attraverso le frequenze di Radio Transizione di Fase. E vi ricordo che siete all'ascolto di Indie Radio, del programma cioè di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Questa sera, ve lo ricordo, siamo in diretta, quindi se volete potete interagire con noi attraverso la chat alla quale potete accedere attraverso il sito di Transizione di Fase. Se non avete IRC, ovviamente, se non avete dimestichezza con IRC, e quindi potete andare sul sito di Transizione di Fase e cliccare dove c'è scritto chat in maniera molto semplice. Se non avete Java, ve lo scaricate, e quindi potete interagire con noi. Intanto vi ricordo che potete ascoltare però la replica di Indie Radio ogni sabato alle ore 20:30 circa. Ma giungiamo alla prossima notizia che abbiamo in scaletta. Abbiamo intanto, vi ricordo, parlato di quello che è accaduto al centro sociale Angelina Cartella e ribadiamo fortemente la nostra massima solidarietà. Ora invece ci spostiamo a Roma, dove è per domani prevista una manifestazione cittadina in difesa dell'acqua pubblica a Piazza Vittorio, ore 15. E quindi qua leggiamo, insomma, questo argomento, pubblicato, questa notizia pubblicata su Indie Media Roma. Il sindaco Podestà di Roma si prepara a vendere un'ulteriore quota del 21% di Acea per fare cassa e tappare i buchi di bilancio provocati dalla sua gestione fallimentare. In tal modo vuole cancellare la volontà della maggioranza dei cittadini che al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 hanno espresso in maniera inequivocabile la loro volontà. L'acqua non deve essere privatizzata, deve essere pubblica e sottratta alla logica del profitto. Alemanno è in buona compagnia. Il governo Monti sta attaccando i risultati e il significato del referendum con una nuova ondata di privatizzazioni. Evidentemente per questi signori la democrazia non ha alcuna importanza. Il loro scopo, attraverso il neoliberismo d'assalto, è realizzare enormi profitti sulle spalle delle masse popolari. E poi si invita alla mobilitazione. Mobilitiamoci tutti per impedire questo ulteriore schiaffo alla democrazia diretta e ai diritti dei lavoratori. La volontà popolare deve essere rispettata da qualsiasi governo e amministrazione pubblica. Diciamo no alle privatizzazioni, lottiamo uniti per la difesa dell'acqua pubblica e dei servizi pubblici locali. Esigiamo lo sciopero generale contro l'offensiva capitalista e la reazione politica per mandare a casa Monti, Alemanno e soci. Le sacrosante battaglie a difesa di beni fondamentali come l'acqua, per la difesa e il mantenimento del carattere pubblico delle risorse naturali, sono importanti. Esse possono avere uno sbocco veramente positivo solo se concepite e sviluppate come parte integrante di una più complessiva lotta contro il regime basato sulla legge del massimo profitto, per la conquista di una nuova e superiore società veramente a misura delle necessità umane. Due punti, il socialismo. E infatti poi diremo di chi è questo comunicato, ma penso che lo stile la dice lunga. Solo con un governo degli operai e degli altri lavoratori sfruttati, insomma, operai, ci piacciono tutti, caspita, sono operai ormai più, non si sa, potranno essere garantite concretamente le esigenze delle masse popolari e far divenire l'acqua e le altre risorse naturali, i mezzi di produzione e di scambio, veri beni nelle mani della collettività. Costruiamo il fronte popolare contro il neoliberismo, l'oligarchia finanziaria, i suoi governi e amministrazioni locali. Costruiamo e rafforziamo comitati unitari dal basso. Colleghiamo la lotta contro la privatizzazione dell'acqua a quella per non pagare la crisi e i debiti del capitale. Cacciamo con la mobilitazione di massa il governo e le amministrazioni antidemocratiche ed antipopolari. Lavoriamo per dotarci dello strumento indispensabile per dirigere le lotte e il processo di emancipazione delle masse sfruttate. Il Partito Comunista Proletario d'Italia è effettivamente, insomma, poi la firma è Piattaforma Comunista, è comitato di base Comitato, scusate, provinciale di Roma. Quindi, insomma, qua si parla di una cosa comunque importante, al di là poi, vabbè, questa idea di operai, insomma, ormai gli operai, insomma, ce ne sono pochi e quelli che ci sono si sentono anche molto privilegiati rispetto a quello che è forse un nuovo soggetto politico, cioè il precario, che non è né operaio e né niente, è solo precario e non sa che fare della sua vita. Ma va bene, così ciascuno di noi poi ha delle interpretazioni. A ogni modo è importante ribadire l'importanza della difesa dell'acqua come bene, inteso come bene pubblico, e quindi è sintomatico il fatto che Alemanno, il potestà di Roma, potremmo definirlo così in maniera molto simpatica, il potestà di Roma dunque ha deciso di continuare a vendere pezzettini di azienda che gestisce appunto l'approvvigionamento dell'acqua alla città di Roma. Ebbene, che dobbiamo dire? Qua continuano le liberalizzazioni alla faccia dei referendum, alla faccia della volontà popolare, e ormai è ben chiaro che questa democrazia effettivamente è svuotata proprio di ogni significato, perché qui si fanno solo gli interessi di pochi, gli interessi delle banche, delle grandi lobby, e la politica stessa alla fine non può assolutamente, la politica intesa come politica parlamentare, può poco o nulla, diremmo nulla, rispetto alle scelte che avvengono, che vengono formulate in altri luoghi di gestione del potere economico fondamentalmente. Quindi rendiamoci conto che effettivamente va riformulata sicuramente l'idea anche stessa di lotta, perché bisogna, per lottare bisogna sicuramente sapere contro chi si lotta in maniera chiara e univoca, e bisogna sapere anche soprattutto che cosa si vuole fare e chi vuole fare questa cosa, insomma. Quindi noi ovviamente siamo per la riformulazione di varie teorie e anche prassi, ovviamente, perché la teoria da sola, diciamo che serve come carta igienica quando si ha la diarrea, sempre importante è, ma non serve a far calmare la diarrea. A ogni modo, occorre individuare una nuova teoria, una nuova prassi che siano adeguate al giorno d'oggi e che appunto abbiano ben presente il diverso panorama economico e produttivo e, diciamo così, di riflesso politico. Ma andiamo avanti. Andiamo dunque negli Stati Uniti, dove un detenuto è lasciato abbandonato a se stesso, dimenticato fondamentalmente in una cella per addirittura 5 giorni, e la notizia è del 3 maggio del 2012. Una bellissima esperienza. Qua mi dicono che scompare il microfono, ma siamo convinti che sia qualche problema relativo a chi ha la connessione fasulla che ci ascolta. Ma ad ogni modo, parliamo di quello che accade a New York, dove è dimenticato per quasi 5 giorni in una piccola cella, senza acqua, cibo e servizi igienici, vittima del soggiorno da incubo, uno studente universitario di San Diego, incappato con altri amici in una retata della DEA, la divisione antidroga americana. I fatti risalgono al 20 aprile, ma sono venuti fuori solo dopo che Daniel Kong, 23 anni, ha deciso di far causa alla DEA, chiedendo un maxi risarcimento da 20 milioni di dollari. Kong ha raccontato che quella sera era andato a casa di alcuni amici per fumare erba. Dopo aver passato lì la notte, il mattino seguente, lui e i suoi amici si sono ritrovati circondati da agenti che avevano fatto irruzione in casa nell'ambito di un'operazione anti-ecstasy. Il raid ha portato al sequestro di 18.000 pasticche, altre droghe e alcune armi. 9 persone, incluso Kong, sono state prese in custodia e portate al quartiere generale della DEA per essere fotografate e interrogate. Dopo le operazioni di routine, 7 persone sono state condotte in una prigione della contea di San Diego e una è stata rilasciata. Accidentalmente Kong è stato lasciato in una delle celle. Ho iniziato a dare calci alla porta per attirare l'attenzione, ha raccontato il ragazzo. Ho urlato, ma invano. Le ore sono diventate giorni e Kong, per sopravvivere, ha bevuto la sua urina e ha ingerito una polvere bianca trovata in cella. A quel punto ha iniziato ad avere delle allucinazioni e in seguito gli agenti hanno scoperto che la polvere era metanfetamina. Quando alla fine le autorità si sono accorte di lui, respirava a malapena. È stato portato in ospedale dove è rimasto in terapia intensiva per 3 giorni. Ha rischiato una crisi renale. Non riusciva a credere che tutto ciò fosse legale, ha affermato Kong, aggiungendo che pensava che non sarebbe uscito vivo. La dea si è scusata per l'accaduto. Il ragazzo non aveva commesso alcun crimine, ha detto un agente sotto anonimato, e avrebbe dovuto essere rilasciato. Il protocollo, inoltre, prevede che le celle siano ispezionate ogni notte. Quella di Kong non aveva bagno perché non era fatta per passarci la notte. È una vicenda veramente allucinante, il caso di dirlo, insomma. Le carceri sono sempre un luogo bruttissimo e dovrebbero essere chiuse. E a proposito di carceri, di repressione, di atteggiamenti intimidatori, aggiungiamo noi che c'è un'altra notizuola da Rimini. Occupi Rimini, il procuratore Giovagnoli e la sua prassi intimidatoria. Leggiamo dunque quanto viene denunciato con questa lettera aperta, appunto indirizzata a questo procuratore. Il 26 aprile 2012 sono stato convocato, leggiamo in prima persona ma non l'abbiamo scritto noi perché è una notizia comparsa su Indimedia Italia. Il 26 aprile 2012 sono stato convocato negli uffici del reparto operativo Carabinieri di Rimini alle ore 10.30 avanti all'ufficiale di polizia giudiziaria appartenente al nucleo informativo del comando provinciale dei Carabinieri, perché nei miei confronti vengono svolte le indagini per il reato previsto e punito dall'articolo 633 e 635 codice penale, reato di occupazione abusiva di un immobile e danneggiamento, in relazione al fascicolo processuale numero 335 del 2012, fascicolo pendente presso la Procura della Repubblica di Rimini. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Questo recita l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Se mi negate questo diritto, allora sono colpevole. Se essere intervenuto nella tarda mattinata alla conferenza stampa pubblica lanciata da Occupi Rimini e aver espresso la mia opinione a sostegno di un progetto importante per la mia città è reato, allora sono colpevole. Se esprimere solidarietà e sostegno concreto a chi in questi territori da tempo si batte per i diritti di tutti, contro la precarietà come forma di vita, per la costruzione di un'alternativa a questo modello di società partendo dal riutilizzo e riciclo degli spazi pubblici abbandonati, è reato, allora sono colpevole. Se essere un sostenitore di un progetto come quello di Occupi Rimini è reato, allora in questo caso sono due volte colpevole. Ma non mi accusate di ciò che non ho fatto, perché io, Faye Bassirou, il 4 gennaio 2012 non ho commesso alcun reato, ma ho espresso la mia solidarietà e il mio sostegno a un progetto che ritengo importante e fondamentale per lo sviluppo della nostra città, portando il mio contributo ad una conferenza stampa dove erano presenti un centinaio di persone, fra attivisti, giornalisti, sostenitori e cittadini. Denuncio pertanto con tutte le mie energie quello che ritengo essere un tentativo di intimidazione, non solo contro di me, ma verso tutti coloro che oggi stanno cercando a Rimini, come altrove, di costruire una nuova democrazia e conquistare nuovi diritti e vera legalità nel mondo del lavoro, della formazione, della socialità, della vita. Denuncio con tutte le mie energie quello che ritengo un tentativo di intimidazione e criminalizzazione che è in atto in questa città verso coloro che sostengono con forza e urgenza Occupi Rimini e pertanto l'individuazione di uno spazio fisico in cui concretizzare questo progetto. Ma serenamente mi sento di dire che chi vuole criminalizzare queste nuove pratiche di costruzione dell'alternativa, che noi non ci arrenderemo mai di fronte all'ingiustizia e alla vera illegalità, quelle sì diffuse e strutturali. Mandatelo. E quindi dunque abbiamo letto questa notizia di Occupi Rimini e questa lettera aperta in prima persona verso questo movimento di Occupi Rimini ovviamente va la massima solidarietà, la massima attenzione. Ma ecco che cosa succede quando invece non vi sono delle strutture, dei gruppi di persone magari che si riescono ad organizzare o comunque quando si è soli innanzi alla crisi. Quando si è soli è facile cadere in depressione, quando non si hanno amici, non si hanno compagni e compagne con i quali condividere i propri stati d'animo, oltre che le lotte ovviamente. Allora succede che basta essere licenziati per non vedere innanzi a sé alcun futuro e quindi ecco quello che accade a Catania, dove un ragazzo di 35 anni, licenziato da un negozio, si butta dal quinto piano. La depressione dopo gli licenziamenti, infine, a Catania. Un uomo di 35 anni, licenziato da un negozio di Malta, dove fino a febbraio scorso aveva lavorato come commesso, si è suicidato buttandosi dalla terrazza della sua abitazione al quinto piano di uno stabile di via Paolo Orsi a Gravina di Catania, alle porte del capoluogo. L'uomo non avrebbe lasciato alcun biglietto per spiegare il motivo del suo gesto. I carabinieri hanno appurato che viveva con la madre vedova ed era caduto in uno stato di depressione dopo il licenziamento, tanto da far ricorso alle cure mediche. Oggi pomeriggio l'uomo e la madre avevano chiesto a una vicina di casa le chiavi della terrazza dicendo che dovevano accedervi per riparare l'antenna della TV. Dopo qualche minuto l'uomo avrebbe convinto la madre a rientrare in casa rassicurandola che avrebbe pensato a tutto lui. Non appena rimasto solo, però si è buttato. E questa notizia, insomma, ci fa riflettere ancora una volta su quello che stiamo attraversando, che è uno stato, diciamo, una condizione di vita, una condizione esistenziale, quella della precarietà, appunto, che sta rendendo l'uomo sempre più solo, innanzi alla crisi, sempre più abbandonato a se stesso, quindi sempre più pronto a credere magari a chi parla da un grande televisore e a chi racconta che per uscire da questo stato di cose, per uscire dalla crisi, magari occorre tutti quanti fare dei sacrifici, quindi accettare lavori a 100 euro al mese, fra poco, e non avere più diritti, lavorare e basta per avere questa illusoria sicurezza che magari durerà qualche mese. Ebbene, questo tentativo è veramente subdolo e va sicuramente individuato e sovrastato dalla collettività, da un lavoro collettivo che certamente non potrà avere frutti grandissimi nell'immediato futuro, ma che sicuramente potrà salvare tante vite dalla depressione e dunque anche da questi suicidi che diventano sempre più frequenti nel nostro paese, o quantomeno nelle zone, diciamo, di lingua italiana, se non vogliamo parlare di paese. E a proposito di morte, concludiamo con questo tentato suicidio, con questa notizia che ci viene dal CIE di Bologna. Il 2 maggio una donna marocchina rinchiusa nel CIE da un paio di mesi ha ingerito del detersivo per farla finita. La donna è soggetta a delle forti crisi di follia, tra virgolette, durante le quali perde coscienza di quello che le sta attorno e di quello che fa. E a stare in un CIE sfido chiunque a non avere queste crisi di follia. In questi mesi ha fatto dei colloqui con lo psicologo del centro e la settimana scorsa ha visto uno psichiatra al Sant'Orsola che le ha aumentato gli psicofarmaci. È bellissima soluzione, non si fa uscire una persona dal CIE, no, si aumenta la dose degli psicofarmaci, che già per chiunque molte volte sono deleteri. Si tratta di gocce e pastiglie che la tramortiscono e che la fanno rimanere a letto inchiodata e dolorante. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che molti di questi farmaci vengono definiti camicie di forza chimica. Praticamente le camicie di forza materiali non esistono più, non vengono più utilizzate, almeno in maniera legale, ma vengono utilizzati dei farmaci che praticamente impediscono alle persone di muoversi addirittura e le lasciano in uno stato semi-vegetale. E queste non sono prassi sconosciute, non sono prassi nascoste, sono prassi che vengono e poste in essere in molte case di cura psichiatriche, in molti reparti ospedalieri dove vengono praticati i TSO, i trattamenti sanitari obbligatori, e anche spesso anche i CIM, i centri di igiene mentale, non scherzano mica, soprattutto quando non funzionano molto bene. vabbè. Ieri, questa donna, cioè il 2 maggio, quella donna si è svegliata ancora più disperata degli altri giorni, ci ha riferito che era talmente sedata da non aver sentito niente della notte di rivolta. si è fatta raccontare tutto dalle altre, poi in lacrime ha aggiunto che voleva morire lì nel CIE e aveva bevuto del detersivo. In preda ai dolori è stata prima portata in infermeria e poi al Sant'Orsola, dove le hanno fatto una lavanda gastrica. È rimasta in ospedale fino a questa mattina, ora è di nuovo, cioè fino al 3, ora è di nuovo dentro e da oggi ha deciso di non prendere più i farmaci che le aveva prescritto lo psichiatra. È molto determinata, ma sicuramente starà male a causa della brusca interruzione e avrà bisogno di aiuto. Il suo medico di fiducia ha cercato qualche giorno fa di entrare nel centro, ma naturalmente gli è stato impedito, come riportato dai giornali. Per esempio leggiamo infatti i titoli di questi giornali: io medico di fiducia lasciato fuori dal CIE su Repubblica di Bologna del 30 aprile 2012. Certamente non ci piace Repubblica, però questa notizia insomma andava certamente letta e commentata. E si conclude questo post con: alleva tutto il nostro sostegno e non ti lasceremo sola. Questo che cosa vuol dire? Che la depressione non tocca soltanto i, ormai come magari alcuni credono, i ricchi borghesi della dell'Europa, anche perché numero uno non si è più molto ricchi né molto borghesi, anche se magari nelle nostre teste rimane qualcosa di borghese, ma molti migranti che vengono rinchiusi nei CIE, che vengono lasciati in balia di loro stessi, magari a dormire sotto i ponti, a essere schiavizzati, perché mai nella ricca più o meno Europa, anche molti migranti che magari sfuggono da guerre, sfuggono dalle vecchie carceri libiche, dove le condizioni di vita erano allucinanti, e ora non c'è dato sapere comunque che cosa accade in Libia. Ricordiamolo, ma molti migranti soffrono di numerose crisi depressive e giustamente la medicina occidentale pensa di sedare le persone che sono colte da queste crisi, semplicemente non modificando il loro stato di cose, non modificando le loro vite, ma semplicemente dando dei farmaci. Ora, magari in alcuni casi alcuni farmaci sono anche necessari, non è che si può fare davvero di tutta l'erba un fascio, ma in moltissimi casi, moltissimi veramente, si fa un abuso spropositato di medicinali perché è la via più semplice e facile per trattare, diciamo così, con un termine clinico, il paziente. Non si parla dunque di uomini, di donne che hanno crisi di depressione e che li spingono fino alla morte o al tentato suicidio. Non si pensa dunque a risolvere le situazioni di vita di un uomo o di una donna, ma si pensa semplicemente a dare delle pillole, delle pasticche che fanno la felicità delle grandi case farmaceutiche. Schiavi dunque di questi medicinali, si va in giro lanciarsi dalle finestre, dai ponti e quant'altro. Questo è quanto. Dunque, riflettiamo sull'importanza invece di creare degli spazi autogestiti, dove poter avere l'opportunità di creare delle alternative reali, come accade, abbiamo visto, a Napoli o anche al Centro Sociale Angelina Cartella di Reggio Calabria. Ripetiamo che ancora una volta tutta la nostra solidarietà va alle forme di autogestione, di autodeterminazione delle proprie vite e a tutti gli spazi sociali esistenti in Italia almeno. Quindi ricordiamo che Indie Radio è sicuramente vicina e presente rispetto ai gravi attentati, lo diciamo, ecco, che subisce quasi quotidianamente il Centro Sociale di Reggio Angelina Cartella. Quindi la nostra solidarietà è tutta presente ed è presente tutta la nostra voglia di sostenere il Centro Sociale Angelina Cartella, che ha lanciato, appunto, come dicevamo in apertura, una campagna Io sto col Cartella. E concludiamo dicendo che anche noi stiamo con Angelina Cartella. E intanto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che potete ascoltare sempre ogni venerdì su Radio Transizione di Fase, in replica ogni sabato alle 20:30. Questa sera speriamo che il segnale vi sia giunto, vi ricordo che siamo in diretta. E avete ascoltato dunque questo programma curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Continuate dunque a seguire Transizione di Fase, continuate a seguire Indie Media Calabria, Indie Media Italia e tutto il network internazionale di Indie Media e sostenete il Centro Sociale Angelina Cartella di Reggio Calabria.